Anima Jazz, un programma di jazz tradizionale e contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera, buonasera a tutte le mie ascoltatrici e miei ascoltatori, un grande abbraccio da Bruno Pollacci. Siete all'ascolto di Anima Jazz numero 662. Una puntata che parte subito con un pianista che si presenta per la prima volta nei miei programmi, Francesco Orio Almanacchi, che per la Ultrasound Records ha realizzato un bel CD in piano solo. È uno dei sogni di tutti i pianisti, quello di realizzare un progetto discografico in solo con il proprio strumento, entrando in una sorta di dimensione altra, in un altro aspetto. Come se fossero tutte e due a un metro da terra, in un'atmosfera tutta particolare di intimità. E Francesco Orio Almanacchi, da questo CD che tra l'altro porta il nome di se stesso, quindi Francesco Orio Almanacchi, ci farà ascoltare un pezzo che è una sua composizione originale. Il pezzo si intitola Dog Train e quindi buon ascolto con Francesco Orio Almanacchi. Thank you. Questa era la musica del pianista Francesco Orio Almanacchi, pianista e compositore che ha realizzato questo CD che porta il suo nome per la Ultrasound Records, realizzato in piano solo. Il pezzo che ci siamo ascoltati era una sua composizione originale intitolata Dog Train. Per, credo, deformazione professionale, spesso la musica mi porta immagini e stavo ascoltando con attenzione questo pezzo di Francesco Orio Almanacchi e mi sono venuti in mente degli angoli, dei triangoli, perché il fraseggio espressivo di questo pianista secondo me evoca delle immagini non certo rotonde, non certo morbide. Ci sono delle durezze, ma queste durezze non sono negative. Non è detto che morbido, sinuoso sia per forza bello e angoloso sia per forza brutto. Ci sono dei valori espressivi che vanno al di là di queste concezioni. Sicuramente hanno degli effetti psicologici, come in musica, come in arte figurativa. Gli spigoli, gli angoli, li avvertiamo come pericolosi e quindi solitamente li possiamo vedere come qualcosa di negativo in generale, tra virgolette, mentre il sinuoso, il morbido ci riporta alle acque, ci riporta alla morbidezza, quindi al non pericolo, e quindi ci riporta a qualcosa che noi associamo al positivo. Ma sicuramente è interessante ogni tipo di linguaggio, indipendentemente da queste valutazioni pseudopsicologiche, e anche l'aggressività, tra virgolette, di certi linguaggi può risultare molto interessante e molto coinvolgente. Quindi il bello va al di là del rassicurante o del dangerous, del pericoloso, dell'avvertito come pericoloso. Ecco, il pianismo di Francesco Orio Almanacchi mi ha comunque fatto volare, mi ha suscitato delle emozioni, delle evocazioni, in questo caso visuali, e quindi credo che già questo, che un progetto discografico riesca non solo a far ascoltare e dire mi piace o non mi piace, ma riesca anche a far volare con il pensiero, mi pare che sia già un risultato raggiunto, interessante, importante. Dopo Francesco Orio Almanacchi, il suo pianismo particolare e il suo CD che porta il suo nome, pubblicato per la Ultrasound Records, è il momento di ascoltare una pubblicazione che ci arriva dall'estero. Io collaboro con molti promoters, molte case discografiche, molti management d'oltreoceano, e mi arrivano dei progetti molto interessanti, particolari, che qui in Italia non circolano, e quindi l'occasione è duplice per voi che ascoltate e per me che programmo, di conoscere nuovi artisti. In questo caso Kevin Stout e Brian Booth. Sono due leader di un gruppo più ampio. Brian Booth suona i sax e i flauti, Kevin Stout suona il trombone, la chitarra e le percussioni, e sono insieme a Joy Singer al pianoforte, Tom Warrington al basso, John Abraham alla batteria e Jobel Jonely alla voce. Il pezzo che ci ascolteremo stasera è una loro composizione ed è tratta dal CD Color Country. Il pezzo che andremo ad ascoltare è intitolato Double Arch, una composizione proprio di Brian Booth, il sassofonista del gruppo. Buon ascolto. Thank you. ci siamo ascoltati la musica di Kevin Stout e Brian Booth. La formazione vedeva Brian Booth ai sax e flauti, Kevin Stout al trombone, poi Joey Singer al pianoforte, Tom Warrington al contrabbasso e John Abrams alla batteria. Noi ci siamo ascoltati Double Arch, una composizione originale di uno dei due leader del gruppo, il sassofonista Brian Booth. Un ensemble, come avete sentito, che suona in un modo molto sciolto, molto naturale, con grande feeling fra i vari musicisti. Ci sono stati dei begli assoli dei due leader del gruppo, il sassofonista Brian Booth e il trombonista Kevin Stout. Molto gradevole tutto il CD, ogni composizione varia linguaggio, oppure all'interno di uno stile, di un'espressività riconoscibile. Le composizioni sono praticamente tutte dei due leader del gruppo, quindi si alternano le composizioni di Brian Booth e di Kevin Stout. Il CD, lo ricordo, è intitolato Color Country, Kevin Stout e Brian Booth. E adesso andiamo avanti ritornando in Italia. Ci ritorniamo con una interessante vocalist. Si tratta di Ludovica Manzo, che ha realizzato un bel CD intitolato Scraps per Jazz and Gin. Il CD è stato anche selezionato, quindi la cantante è stata selezionata anche per il Festival Dubidubidù 2015, l'undicesimo festival radiofonico delle voci jazz italiane. Ludovica Manzo ha creato questo progetto con molte composizioni originali molto interessanti e vive questo progetto discografico con Beppe Scardino, conosciutissimo musicista che in questo progetto suona sia il sax baritono che il clarinetto basso, Marcello Giannini alla chitarra elettrica, Riccardo Gola al contrabbasso, Ermanno Baron alla batteria. E poi c'è un intervento di Gino Maria Boschi alla chitarra classica in un pezzo di questo CD. Il pezzo che ci ascolteremo stasera è una composizione originale di Ludovica Manzo ed è intitolato Sometimes. Buon ascolto. Thank you. Ci siamo ascoltati Ludovica Manzo con il suo ensemble, un CD questo pubblicato per la Jazz Engine intitolato Scraps, che mette in evidenza le grandi capacità compositive oltre che vocali di questa validissima artista, un artista che dimostra di essere veramente ispirata in queste sue composizioni, con una interessante originalità, con una capacità di uscire dagli schemi, una volontà di uscire dagli schemi. A volte c'è la volontà ma non c'è la capacità, e a volte il contrario. In questo caso ci sono entrambi, c'è la volontà e la capacità di uscire dagli schemi, di creare una propria strada, un proprio percorso, e con eleganza, raffinatezza, ma nello stesso tempo anche con una certa incisività, con una certa con un certo graffio, con una certa zampata espressiva, particolare, personale, molto interessante. Tutto il gruppo, a cominciare da Beppe Scardino, Marcello Giannini, ma anche gli altri, tutta la sezione ritmica con il contrabbassista Riccardo Gola, Ermanno Baron alla batteria, sono complici di questo progetto, offrendo veramente una prova magistrale di ensemble, nel rispetto delle sonorità, delle ambientazioni, con grande equilibrio, e nello stesso tempo ognuno vive il suo ruolo con grande professionalità e anche con grande sensibilità, perché ogni pezzo non è facile di questo CD, di questo progetto discografico, e sicuramente l'interpretazione non è così banale, non è così semplicemente professionale come a volte altri pezzi possono richiedere. Quindi un progetto discografico veramente molto bello, questo Scraps, e ricordo ancora una volta che grazie a questo Ludovica Manzo si è guadagnata la selezione per il prossimo Dubidubidù 2015, l'undicesimo festival radiofonico delle voci jazz italiane, che partirà ad ottobre, quindi avremo occasione di riascoltarla. Dopo questa validissima nostra vocalist e compositrice italiana, è il momento di tornare all'estero, e ci torniamo con Charles McPherson, validissimo sassofonista che si presenta ad Anima Jazz con un progetto discografico uscito per la Capri Records intitolato The Journey. La formazione vede Charles McPherson al sax alto, Keith Oxman al sax tenore, Chip Stevens al pianoforte, Ken Walker al basso e Todd Reid alla batteria. Il titolo del pezzo è una composizione originale intitolato Elena. Buon ascolto con Charles McPherson Quintet. Thank you. Questa era la musica di Charles McPherson, un grande sassofonista, un artista dalla grande carriera, ha avuto maestri eccelsi e tra l'altro in questo progetto è riuscito a scovare nuovi musicisti veramente molto validi, molto interessanti, che hanno saputo interpretare con grande eleganza, grande raffinatezza questa sua composizione originale intitolata Elena, tratta dal CD The Journey. Il gruppo vede appunto Charles McPherson al sax in questo progetto, anche se non era presente in questo pezzo, ma è presente anche un altro sassofonista, Keith Oxman, e poi il pianista Chip Stephens, il bassista Ken Walker e il batterista Todd Reid. Il CD The Journey è stato pubblicato dalla Capri Records. Charles McPherson. E adesso andiamo avanti con un personaggio interessante, simpatico, che ho avuto il piacere di contattare proprio, anzi è stato lui che ha contattato me, è stato bellissimo poter ascoltare il suo CD live in Praga. Sto parlando del chitarrista e vocalist Adriano Trindade, i Los Quemados, il suo gruppo che lo accompagna in giro per il mondo. È un artista che vive con grande entusiasmo, grande volontà, grande passione, soprattutto i concerti in giro per il mondo. Ha l'opportunità e la fortuna di questi tempi così difficili di avere molte commissioni, quindi riesce a girare veramente vari continenti portando la sua musica, una musica che risente moltissimo dell'ambientazione Latin e che lui interpreta con grande proprietà di linguaggio, grande capacità, ma soprattutto con questo grande con questa grande naturalezza e questo grande entusiasmo. Adriano Trindade e Los Quemados, stasera lo potremo ascoltare in una composizione che è stata scritta dallo stesso Adriano Trindade insieme ad Antonio Villeroy e a Tiago Gentil, intitolata Amiga de Morgana, è tratta appunto da questo CD live in Praga pubblicato nel 2014. Buon ascolto quindi con Adriano Trindade alla voce, alla chitarra, Philip Spellini al contrabbasso, Joey Balek al pianoforte e alle tastiere, Jakub Dolejal al sax e Ondrej Pomajl alla batteria. O que eu quero é te ver sambando, aonde quer que seja. Até o sol raiar e eu vou tá tocando. Quero te ver na frente, quero te ver na frente. quero te ver contente. Hoje você não escapa, não. Já tenho cavaquinho, violão, e o baile já está pronto e vai ferver. Camila perguntando por você: cadê, cadê você? Deve estar com algum playboy na fita. Você é esquisita, você é esquisita, sararará. Camila tá ficando mais bonita. Deve ser birita, deve ser birita. Camila é a melhor amiga da Morgana. Por isso é que eu não quero ser sacana. Mas se a Morgana demora, já vai passando da hora. É com a Mila que eu vou embora. Mas se a Morgana demora, já vai passando da hora. É com a Mila que eu vou embora. E questa era la musica gioiosa di Adriano Trindade che ci ha fatto ascoltare una sua composizione scritta con Antonio Villeroy e Tiago Gentile, intitolata Amiga de Morgana, tratta dal CD Live in Praga pubblicato nel 2014. Adriano Trindade e Los Quemados. Adriano Trindade alla voce, alla chitarra, Philip Spellini al basso, Johnny Bellek al pianoforte, alle tastiere, Jakub Dolejal al sax e Andrei Pomajl alla batteria. Un gruppo che vive l'entusiasmo, la gioiosità della musica Latin che Adriano Trindade ci propone con grande entusiasmo, con grande naturalezza. Un disco sicuramente gradevole. Adesso andiamo avanti con due straordinari chitarristi britannici. Si tratta di Pete Oxley e Nicholas Meyer, che hanno realizzato insieme un CD intitolato Chasing Tales, veramente un CD straordinario con delle performance di grande eleganza, di grande raffinatezza. Il pezzo è un pezzo originale intitolato The Followers, e quindi buon ascolto con questi due chitarristi, Pete Oxley e Nicholas Meyer. La straordinaria qualità musicale di questi due meravigliosi chitarristi, Peter Oxley e Nicholas Meyer, due chitarristi britannici veramente dalla grande capacità tecnica, grande capacità compositiva, sensibilità. Si tratta di due straordinari professionisti che ci hanno offerto The Followers, tratto dal loro CD Chasing Tales. E siamo di fronte veramente a due artisti di grande levature, ancora poco conosciuti. Nicholas Meyer fa parte del gruppo di Jeff Beck, ma Nicholas Meyer è veramente un artista di prima luce. Fra poco dovranno dire: ho suonato con Nicholas Meyer, ho suonato con Peter Oxley. Sono veramente due grandi maestri della chitarra. Dopo Peter Oxley e Nicholas Meyer è il momento di ritornare in Italia con Fausto Ferraiuolo Trio. Fausto Ferraiuolo è un ottimo pianista pianista che insieme a Mauro Gargano al contrabbasso e Antoine Banville alla batteria ha realizzato per la Ebit for Jazz un bel CD intitolato Ponti Sospesi, Pont Suspendus, e da questo CD noi ci ascolteremo una composizione originale di Fausto Ferraiuolo intitolata Fort Berry. Buon ascolto. Thank you. Questa era la bella musica di Fausto Ferraiuolo, un musicista che con questo suo CD Ponti Sospesi, Pont Suspendus, pubblicato dalla Beat for Jazz, manifesta la sua maturità, la sua compiuta maturità musicale. Insieme a Mauro Galgano al contrabbasso e Antoine Balville alla batteria, ha realizzato un progetto vario, interessante, sicuramente in pieno rispetto del mainstream, della grande tradizione, ma con spunti contemporanei. Non certo secondari e interessanti. Dopo la bravura pianistica e compositiva di Fausto Ferraiuolo, siamo all'ultimo pezzo della serata ed a proporcelo è il sassofonista Nicola Fazzini, che per Nusica Records ha realizzato un CD intitolato Minimum Sax Volume 1 Random al quadrato, e il pezzo che ci ascolteremo è una sua composizione intitolata Espansioni e Concentrazioni. Buon ascolto. Questo era Nicola Fazzini dal CD Minimum Sax Volume 1 Random al quadrato, pubblicato da Nusica.org. Il pezzo era una sua composizione intitolata Espansioni e Concentrazioni, un CD molto coraggioso, molto difficile, di concentrazione intimistica e sicuramente di difficile proposta per un pubblico vasto. Con questo pezzo di Nicola Fazzini si chiude la 662esima puntata di Anima Jazz. L'appuntamento è, come sempre, a giovedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci, da Anima Jazz.